Ricordate, dopo i primi numeri della sequenza 0, 1, 1, 2, 3, 5. Iniziate sommando 3 e 5. Che numero ottenete? Continuate poi sommando ogni nuovo numero con quello precedente, fino ad arrivare al 21. Contate infine da quanti numeri è composta la sequenza che vi porta da 0 a 21.